La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, questa è la nostra ora di cinema qui su Radio 24, un saluto da Franco D'Assisi, settimana contrassegnata per quanto concerne il cinema dalle nomination agli Oscar che sono arrivate nel pomeriggio di giovedì, ormai le avete sentite, le avete metabolizzate, un Oscar che sarà all'insegna della qualità di film che sparpagliano un pochino l'orizzonte, che non tengono le cose come sono, che non sono establishment puro, anche se stiamo parlando di Hollywood. Birdman, Grand Budapest Hotel, i due candidati con maggiori nomination, 9, ma anche Boyhood, che dopo i successi del Golden Globe continua a fare incetta di nomination, e poi anche tanti altri film di cui adesso parleremo con un amico che è al telefono con noi, Andrea Morandi di Chuck, che ha seguito tutta la trafila del momento delle comunicazioni delle nomination, e soprattutto il 22 di febbraio sarà sul pezzo quando le statuette saranno assegnate. Ciao Andrea! Esatto Franco, un saluto a tutti. Allora, ti aspetterà la solita notte campale che tutti noi cinematografari dobbiamo subire una volta l'anno. Andrea, partiamo un po' dalla vetta, cioè da quello che è, almeno in termini numerici, questa nomination all'Oscar e come si preannuncia anche la notte delle statuette. Dicevo, grande qualità. Se pensiamo a due film come Birdman, che ha aperto la mostra del cinema di Venezia, che è un film, secondo me, straordinario, con un Michael Keaton in una delle sue prove migliori, e Grand Budapest Hotel, che sì, ai Golden Globe hanno messo come commedia, ma insomma gli sta stretto un po' il cappottino della commedia a Wes Anderson, e questi sono quelli che hanno preso di più. E invece la, se vogliamo dire, bocciatura di Interstellar, che era il colossalone, che arrivava come colossalone, ma si è portato a casa 5 nomination, praticamente tutte tecniche, sonoro, montaggio. Ecco, ancora una volta, negli ultimi anni è un trend, ma qui mi sembra proprio che sia consacrato il fatto che gli Oscar ci vogliono raccontare di un cinema che cerca di sfuggire un po' nei limiti del possibile dal mainstream, o quantomeno cerca quel mainstream che però vuole raccontare anche qualcos'altro in maniera diversa. Certo, da questo punto Birdman di Iñárritu è il caso più eclatante, insomma, perché certo tutti si aspettavano che fosse candidato, ma non così pesantemente. E lo stesso Anderson, come dicevi tu, è veramente una delle punte di diamante di quella scena lì. Colpiscono alcune cose, tipo Tim Burton, nemmeno considerato, e quel Interstellar di Nolan, che ormai abbiamo capito che all'Academy Nolan non piace più di tanto. A noi è dispiaciuto molto anche che Gone Girl, altro filmone di Fincher, abbia preso solo una nomination per Rosamund Pike, miglior attrice. Però rimangono alcune stranezze, a dire la verità, perché American Sniper, super candidato, però non per Clint Eastwood dalla regia, che è appunto autore, fondatore unico, insomma, di quel film lì, lascia un po' perplessi. Però insomma, devo dire che non ci sono molte sorprese, questo è evidente. How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? Used to be Birdman. Avete sentito una parte della clip originale di Birdman? Ho voluto farvela sentire proprio in originale, c'è già il trailer italiano perché il 5 febbraio il film è nelle sale, però per farvi sentire con quale profondità recita Michael Keaton, e qui c'è anche un momento proprio in cui c'è questo confronto con questo supereroe, un uomo alato, un uomo uccello piumato, che è la sua scimmia, insomma è il suo alter ego, è il lato scuro di se stesso. Film assolutamente imperdibile, Birdman. Dicevi di American Sniper, per 7 nomination, niente Clint Eastwood. Quanto ha contato secondo te l'onda forte del momento anche emotivo che sta vivendo l'Occidente, insomma, in questa fase di relazioni, diciamo così, non proprio idilliache, con il mondo arabo e il mondo islamico? Ha contato fino a un certo punto, però, perché l'attualità negli Oscar entra quando vogliono che entri. Basta vedere le nomination di Selma, che ha preso solo 2 nomination. Parla di Martin Luther King e delle marce nell'Alabama degli anni 60, che molti davano per favorito, visto il tema di attualità dopo Ferguson e dopo gli altri avvenimenti negli Stati Uniti. Però evidentemente all'Academy piace di più vedere quello che succede fuori, forse. Quindi da questo punto di vista American Sniper è diventata una fotografia perfetta del momento terribile che stiamo attraversando. Insomma, anche se poi, avendo votato prima, non so quanto poi sia entrata il momento emozionale anche che stiamo vivendo in questi giorni. Una cosa è certa, American Sniper Golden Globe non è esistito, mentre qui è uno dei protagonisti principali. C'è un certo equilibrio, ce ne sono due con 9, sì, poi con 7, poi con 6. Ci sono i film sui matematici che vanno tanto di moda ormai, tra Imitation Game e Stephen Hawking della teoria del tutto. Però sì, c'è un film di cui io sono veramente felice, e non so se tu hai avuto modo di vederlo. Adesso ci sentiamo insieme la clip, poi ne parliamo. Si chiama, sì, Whiplash. 5, 6, I wanna be great. And you're not. Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. E questo è uno dei momenti che contraddistinguono questo straordinario lavoro passato al Festival di Torino, Birdman al Festival di Venezia. Come dire, i festival italiani si sono difesi bene e sono rappresentati. La storia di un rapporto molto intenso fra un allievo studente di batteria e il suo professore mentore, che è una sorta di tiranno nazista, l'avete sentito qui proprio urlargli dietro per una nota sbagliata. È un film che racconta il rapporto mentore-pupillo e lo spinge alle estreme conseguenze, mettendo nello spettatore un dubbio che tanto buonismo forse non sia sempre ben riposto, ma soprattutto facendoci ascoltare una straordinaria musica standard jazz americana con attori incredibili. E devo dire che la nomination al miglior attore non protagonista per J.K. Simmons nei panni del professore è strameritata. Sì, sembra quello di Full Metal Jacket, sembra Lee Ermey di Full Metal Jacket, è straordinario. Ed è bello che finalmente questo film abbia avuto una distribuzione italiana, visto che il 12 febbraio finalmente potranno vederlo tutti. È un film molto particolare che ha sorpreso tanti, perché non è un film da classico film d'Academy, però è segno appunto che l'Academy sta aprendo tante voci diverse, non c'è più, come dicevi tu, il mainstream e basta. Come Boyhood è il caso più clamoroso, che sarà quello probabilmente che vincerà l'Oscar come miglior film. Vedremo, perché ha vinto, ricordiamo, il Golden Globe. Vedremo se farà doppietta o se Birdman in questo senso magari lo batte. Tu cosa ne pensi? Cosa pronostichi? Beh, io dico che Boyhood per gli americani è il film dell'anno. Birdman è molto bello perché è già un po' più raffinato. Boyhood è un film che arriva alla pancia, alla testa, insomma arriva in tanti modi ed è stato un caso assoluto. Quindi secondo me ci sarà la spartizione con Inarritu alla regia, il film a Boyhood e spero Keaton, perché a questo punto se non gli dai l'Oscar a Keaton per quella cosa lì non glielo darai mai più nella vita. No, assolutamente. Va bene, grazie Andrea. Io ricordo l'appuntamento il 22 di febbraio per gli Oscar e poi chiaramente ti riscomoderemo perché dovremo analizzare ancora come sarà andata, certo, a finire. Grazie Andrea Morandi, sì, che potete leggere grazie su Chuck, e alla prossima. A presto, grazie Franco. Ho fatto di nuovo quel sogno. Quello col cervo? Sì. Secondo me gli dai troppo peso. Che continui a farlo non significa niente. È un sogno. Ma non mi è mai capitato di continuare a sognare lo stesso sogno. Ed è così reale. Adesso è colpa di quel sogno se non hai fame. Però è la verità che non ho fame. È semplicemente nausea mattutina. Il dottor Bill l'ha detto. È normale, sforzati di mangiare. Una coppia giovane a New York, protagonista di Hungry Hearts di Saverio Costanzo, il film con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, una delle novità di questa settimana in sala, la più importante a mio modo di vedere, sotto tanti punti di vista. Una coppia, dicevo, giovane, si sono conosciuti e sono Alvar Horvacher e Adam Driver. Tra l'altro se mettete il suo nome in un motore di ricerca vedrete la sua faccia e capirete chi è. È stato presente anche nell'ultimo film dei fratelli Coen. E dicevamo, giovani, si sono conosciuti per caso a New York, si sono innamorati, lei rimane incinta e la sua reazione è un po' questa, un sogno ricorrente. Tutto questo capita da quando una veggente le ha detto che il suo è un bambino speciale, un bambino blu, è un bambino come protetto da una sorta di aurea. Lei lo vuole proteggere ancora di più, inerpicandosi in una strada alimentare davvero devastante, soprattutto per il bambino e anche per la sua mente, quella di coltivarsi solo gli ortaggi sul terrazzo. Tra l'altro a New York non è che ci sia, come dire, un'atmosfera che permetta di essere così sicuro sicuri della bontà del prodotto, ma scherzi a parte, questa mamma si accartoccia sul bambino e su se stessa, finendo in una spirale davvero drammatica. Il padre del bambino, Adam Driver, appunto, cerca in qualche modo di portarla fuori da questa logica con il ragionamento. Quando questo non basta più, la questione si sposta da un ambiente di dramma familiare a un ambiente quasi thriller. Una delle cose più belle di questo film di Saverio Costanzo è come cambi il mood del film nel corso dello svolgimento del film stesso, e come apra interrogativi importanti, appunto, su quello che è la nostra responsabilità verso qualcuno, in questo caso verso un bambino appena nato, verso i nostri figli, verso noi stessi, verso chi ci sta di fronte, e come le nostre scelte possono influenzare in maniera anche drammatica quelle di chi ci vive vicino. E allora, Hungry Hearts, dicevo, una delle novità, un film che io consiglio vivamente di andare a vedere, perché non sarà un film normale, non sarà solo puro intrattenimento del sabato sera, cosa che peraltro è, perché ha, come dicevo, un côté anche noir sicuramente molto interessante, che viene fuori anche grazie alla regia di Saverio Costanzo. Lo abbiamo intervistato, Saverio, che era passato con questo film in concorso a Venezia. Sentiamo cosa ci ha detto. Partiamo dall'idea, un libro alle spalle, ma insomma di libri ce ne sono tanti. Cosa ti ha convinto di questo tema così particolare, controverso, che si presta anche a essere un tema rischioso in un certo senso? È l'idea che dentro questa storia c'era proprio una forte drammaturgia sentimentale. È una storia d'amore, Hungry Hearts, nella sua forma proprio magari più tragica. Il libro ti mette di fronte a qualche cosa, il libro, la storia di Franzoso, come questa, insomma, del film, ti mette di fronte a qualcosa di sconveniente, di faticoso. Però io spero che attraverso, appunto, guardando il film, poi se ci entri, insomma, lo spettatore possa in un certo senso non giudicare quei personaggi, nonostante facciano delle cose e compiano delle scelte anche difficile, non condivisibile, diciamo così. Però il film non vuole giudicarli, vuole mostrare questa storia, e lo fa con rispetto, ecco, dei suoi personaggi. Ecco, dopo la scelta arrivano gli attori, e tu prendi Alba Rohrwacher, perfetta proprio anche fisicamente per questo tipo di parte, di questa madre con le sue ossessioni da seguire prima di tutto, e guardi ad Adam Driver, che è uno degli attori ormai emersi, diciamo così, del cinema americano contemporaneo. Come spieghi questa scelta e questa alchimia che hai cercato fra questi due attori? E Alba, me l'ho pensata proprio, la storia l'ho scritta pensando ad Alba. Dunque lei è stata a bordo, diciamo, di questo progetto da subito. Adam è un attore che a me piaceva moltissimo, anche se ha fatto sempre delle piccole cose. Questo è il suo primo reale film da protagonista, e ha letto il copione e ha accettato di farlo. Per me lui è un attore autentico. Gli attori americani sono bravi, diciamo così, nella maggior parte dei casi. C'è una versatilità proprio della recitazione che l'America ha, chissà, forse per la lingua, non so. Però è facile che si somiglino un po' tutti, no? Che abbiano un po' tutti le stesse facce. Invece Adam riesce a essere bello, brutto, riesce a cambiare moltissimo da come lo inquadri, diciamo così, anche la sua fisicità. Perciò è un attore molto completo, è coraggioso, è un attore molto, molto completo, un uomo anche molto serio. Insomma, una persona, per me è stato molto, molto bello lavorare con lui. La scelta di ambientare a New York la storia, una scelta, diciamo, anche di respiro internazionale, che prevedeva già di far girare il film, insomma, all'estero, o New York era necessaria più di quella che era la location originale del libro? Ma no, in realtà io non ho mai pensato di girare questo film in Italia, perché nonostante la storia fosse ambientata nel nord Italia, io non sentivo possibile o credibile una storia del genere in Italia, ma non, voglio dire, per quello che serviva a me drammaturgicamente. Il personaggio di Mina doveva essere isolata, doveva essere lontana dalla propria casa, doveva avere una città molto forte fuori da casa, che lei cercava di sconfiggere chiudendosi in casa. città che appunto New York è, ma che anche la Roma, che è la più grande città italiana, in realtà non riesce a essere violenta come New York. In più quest'idea proprio appunto di non avere radici, di essere un po' selvaggia, senza madre, con un padre anziano che non vede mai o con cui non parla mai, insomma questo essere solo al mondo era molto importante. L'idea di esportare, diciamo così, questo personaggio all'estero era per me drammaturgicamente necessario. Ecco. Ho visto una cosa che tu hai dichiarato, cioè che tu hai vissuto a New York e ti sei sentito isolato, che cozza con l'immagine che si ha di città cosmopolita nella quale vengono tutti accolti, no? Sì, beh, io non è che mi sono sentito solo, mi sono sentito una grande solitudine come chiunque in realtà abita a New York. È una città dove è facile sentirsi soli. È una città appunto che dà tanto ma che toglie anche moltissimo in termini proprio di energia vitale, tende a giudicare molto, a chiedere delle performance ai suoi abitanti molto alte, e questo crea uno stress e poi appunto questa sensazione in fondo di isolamento, ecco, si può provare a New York, che è quella che poi prova Mina. Io L'ho provata, voglio dire, ma non in un modo... Sì, ecco, non esageriamo, però sentivo, ecco, che significa poi essere soli. Ecco. Ecco, sulla scelta di regia, una delle cose che mi sono piaciute di più del film è come tu cambi quasi il metro di regia e il clima del film man mano che la storia si evolve. Si parte quasi da commedia in quel cesso di un ristorante di cui non si apre la porta, si va avanti come in una storia d'amore, si precipita in questa follia con i toni del thriller psicologico, anche con i grandangoli, con le inquadrature fatte in un certo modo. Ecco, raccontaci un po' queste scelte e come hai seguito proprio con lo stile di regia questo film. Beh, in realtà molto istintivamente noi non avevamo moltissimo tempo per girarlo, dunque non potevamo tecnicamente fare delle cose straordinarie, ecco, avevamo pochi mezzi. Io ho lavorato, come in questo caso, ho lavorato molto istintivamente, dunque non ho riflettuto, ho fatto proprio quello che sentivo era giusto fare in quel momento. Non avevo un'idea precisa di quello che doveva essere la regia, thriller psicologico. C'erano delle scene di tensione, che io seguivo la tensione, musica naturalmente, sì, sì, aiuta. Sì, la musica aiuta, come però ci sono poi delle... Il film va, diciamo così, a salti temporali in cui sei sempre catapultato in un'azione, nel mezzo di un'azione, cioè l'azione sta succedendo proprio quando noi entriamo nella scena, e tutte le volte per giocare con l'imprevedibilità, che è un po' il sale del senso del cinema, no? Cioè non sapere mai quello che succede dopo. Abbiamo lavorato su registri in cui appunto si passava dal thriller psicologico a qualcosa di però stranamente dolce e romantico, a qualche cosa, cioè tende a cambiare un po' il tono il film. Abbiamo tolto tutto quello che non serviva, diciamo così, ci siamo proprio concentrati sul racconto. Faccio un'ultima domanda. Certo, cuori affamati e anche un po', giocando sulla pronuncia, arrabbiati, ma anche un film su quel sottile confine fra realtà, verità, responsabilità, perché alla fine, di cui non diciamo niente, ovviamente queste carte si mischiano molto, no? Sì, sì, è un sì, si potrebbe dire anche che è un film sul diventare, no? Diventare genitori, per esempio, un film su un uomo e una donna che diventano dei genitori, una coppia, un uomo e una donna che diventano una coppia e che poi diventano dei genitori. Dunque c'è quest'idea nel film proprio, sì sì, della responsabilità, del diventare, no? Del prendersi la responsabilità di qualcuno e come viene intesa questa responsabilità, no? Da una coppia che magari, diciamo così, il film estremizza, è estremo naturalmente, però... quelle dinamiche sono le dinamiche che accadono alla coppia, e poi soprattutto con un bambino appena nato che crea e può creare delle grandi tensioni in una coppia, no? Poi certo la storia è molto, molto estrema, non, grazie al cielo non accade spesso. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Saverio Costanzo alla Rosa Purpura per parlarci di Hungry Hearts, per me davvero il consiglio cinematografico di questo weekend, un bel film italiano girato con mano internazionale in America, negli Stati Uniti, a New York, e un film di grande spessore nei contenuti e nelle modalità espressive. Andiamo a giocare insieme adesso invece con la prima traccia del film misterioso di oggi. Ho informazioni su un gruppo di trafficanti di droga. Devo parlare con qualcuno che abbia l'autorità per intervenire. Ah, è fortunata. Non c'è nessuno con più autorità di me in questo ufficio. La Rosa Purpura a @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Dovete scriverci il titolo del film, se l'avete già indovinato, il vostro indirizzo di posta per provare a vincerlo e a riceverlo in caso siate fra i due più veloci. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso linea alla regia. Torniamo fra poco insieme con le altre novità di questo fine settimana in sala, a partire da Exodus. Eccoci ancora qua, terza parte della Rosa Purpurea. Vi abbiamo promesso l'esodo ed esodosia. Siamo al film, vi ho detto, il mio film della settimana è senza dubbio Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Certo che in termini di dimensioni produttive e di importanza comunicativa, il film Exodus, Dei e Re di Ridley Scott, con Christian Bale, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro e una nazionale che sembra l'All-Star Game, ovviamente si impone. Tra l'altro è ovviamente il film che è partito meglio fra quelli nuovi usciti in sala nel primo giorno di programmazione. Non è riuscito a fare meglio di American Sniper, che a questo punto chissà dove arriverà, ma insomma è chiaramente il film di maggiore potenziale commerciale fra quelli di questo weekend. Poi che sia bello è tutta un'altra cosa, anzi ho qualche dubbio. Sentiamo la clip. Mosè, Ramses, voi siete cresciuti insieme come fratelli. Abbiate cura l'uno dell'altro. Sempre. Sai che c'è qualcosa di sbagliato, lo hai sempre percepito. I tuoi genitori non ti hanno mai detto la verità. Quale verità? L'anno della tua nascita ci fu una profezia che sarebbe nato un condottiero per liberarci. Quel condottiero sei tu, Mosè. L'avete capito, la storia è quella, insomma, biblica, cioè la storia di Mosè e della sua lotta contro il faraone Ramses, con il tentativo di liberare 400.000 schiavi in questo viaggio di fuga dall'Egitto e dalle piaghe mortali. Non riesco a prenderlo molto sul serio, perché quando chiaramente si affronta la storia biblica con le musiche New Age, poi chiaramente anche con i doppiaggi che rendono tutto un pochino più ovattato, ci sono momenti di dialogo che sfiorano francamente il feuilleton sentimentale, non si riesce tanto a dargli credibilità. Certo, questo è un film che si salva probabilmente con l'uso del 3D al massimo dello stato dell'arte e con effetti speciali davvero straordinari. Bastano per salvare il film, o è solo una bella gioia per gli occhi ma finisce lì? Lo chiediamo a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco e a tutti gli ascoltatori. Temo proprio che non basti, purtroppo. Temo proprio che Exodus di Ridley Scott paghi un paio di problemi che forse non dipendono neanche da Ridley Scott, che sono sostanzialmente il fatto che anche i grandi registi del cinema, come Aronofsky, come Ridley Scott, non si rendono conto che la Bibbia è un fantasy, tra virgolette, lo dico senza nessuna irriverenza, che è stato scritto migliaia di anni fa, quindi non con le raffinatezze stilistiche e soprattutto con la profondità di sceneggiatura che possiamo avere in questo momento, e inevitabilmente ne escono fuori dei polpettoni con dialoghi che sono sì forse quelli che abbiamo imparato negli anni e anni di catechismo, ma che non sono più adatti a un pubblico come questo. Detto questo, poi Ridley Scott ci mette del suo. Se aveva dato il meglio di sé quando si faceva interrogazioni, domande sui massimi sistemi, come con Alien, come su Blade Runner, adesso che è invecchiato invece dà il peggio di sé sempre su questo aspetto qua. Con Prometheus cercava l'origine della vita in una civiltà aliena, qui cerca l'origine della religione, della Bibbia, nell'esodo appunto degli ebrei dall'Egitto. E le cose più riuscite forse sono le cose involontariamente comiche, cioè quel Dio personificato in un bambino dispettoso, indisponente, molto vendicativo. Certo, ovvio, quando si sente magari poi un papa dire che se gli toccano la mamma magari lui darebbe anche un pugno, si capisce che fa parte anche di quella cultura, però l'impressione è che non si riesca mai a raggiungere la profondità che invece una storia del genere meriterebbe, perché comunque fa parte di un immaginario collettivo che ha costruito anche gran parte della nostra cultura, delle culture occidentali. La cosa migliore forse da salvare è proprio Christian Bale, che interpreta il suo Mosè alle prese con col supereroe degli supereroi, cioè Dio, come Batman, cioè come un supereroe fallibile e imperfetto, è sempre molto dubbioso. Gli lascia però Ridley Scott veramente uno spazio limitatissimo per il suo talento, e anche lui alla fine viene reso bidimensionale da questo racconto, quindi è un colossal davvero con i piedi d'argilla. Schiera la divisione Amon al nord, la divisione Ra al centro e Ta a sud, manteniamo 7 di riserva. Dovremmo concentrare le nostre forze al centro. Tu dovresti concentrarti sulla battaglia, lascia a me il comando. Allora, questo è Exodus, il film di Ridley Scott, il colossal di questo weekend al cinema. Noi dobbiamo giocare ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Io ho assorbito CPH4 sintetico che mi permetterà di usare il 100% delle mie capacità cerebrali. Ora sono al 28% e quello che lei ha scritto è vero. E beh, questa della percentuale di utilizzo delle proprie potenzialità cerebrali è la chiave di questo film, quindi insomma dovete aver indovinato a questo punto. Tra l'altro ne uscirà uno fra poco di film che si chiama Italiano Medio di Maccio Capatonda, che parla di un italiano che userà molto meno delle sue già labili capacità mentali, succederà un po' il contrario. Però detto questo, dovete dirci il titolo di questo film che avete sentito, dovete dirci il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie del Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica, ve lo ricordo, larosapurpurea@radio24.it. E allora andiamo avanti. Abbiamo detto prima, in sede di analisi delle nomination agli Oscar, il momento di gran moda, se vogliamo, della matematica tutta, non solo al cinema, stanno uscendo anche in Italia, lo vedete, pubblicazioni allegati ai quotidiani che parlano di matematica, insomma grandi matematici che fanno i narratori e sono narratori di grande successo, insomma la matematica come materia calda, lo abbiamo detto settimana scorsa anche qui alla Rosa Purpurea. Il cinema chiaramente la sta utilizzando anche con un discreto successo. Agli Oscar appunto c'è un film come The Imitation Game, ma c'è anche un film come La teoria del tutto, che esce nelle sale in questo fine settimana in Italia, e racconta la storia di un grandissimo della scienza tutta, non solo delle scienze astrofisiche o matematiche o fisiche. Stiamo parlando di Stephen Hawking. Sentiamo questa clip e poi ne parliamo. Se Einstein ha ragione, o se la relatività generale è esatta, sì, allora l'universo si sta espandendo, no? Sì. Ok, quindi, se inverti il tempo, l'universo diventa più piccolo. D'accordo. Allora, se per esempio io invertissi il processo tornando indietro per vedere cosa è successo all'origine del tempo. All'origine del tempo? Sì. Cioè l'universo diventa sempre più piccolo, diventa sempre più denso, sempre più caldo, mentre noi... Vuoi mandare indietro l'orologio? Esatto. E allora, è un momento di dialogo fra Stephen Hawking e la ragazza che sarebbe poi diventata la sua compagna non solo di studi ma anche di vita, Jane Wilde. È un film molto classico, La teoria del tutto, perché da una parte è un classico biopic, racconta la vita di Stephen Hawking, racconta di come la malattia abbia, come dire, da una parte devastato il suo corpo, ma dall'altra assolutamente forse rafforzato ulteriormente la sua già ultra fertile mente, ma dall'altra parte è anche un film appunto che ci mette vicino allo studio di teorie che hanno cambiato il nostro modo di vedere la scienza, la fisica, chi siamo, dove siamo, da dove veniamo, le grandi domande a proposito di Exodus. Boris, un film che secondo me, grazie soprattutto agli attori, tra l'altro Eddie Redmayne nominato come miglior attore agli Oscar, riesce pur nel suo classicismo ad appassionare comunque a questa vicenda umana e scientifica lo spettatore. Sì, appassiona secondo me soprattutto grazie a una struttura melodrammatica non troppo solida ma efficace. È un Eddie Redmayne clamoroso, pazzesco, si confermano determinati attori straordinari nel momento in cui si devono confrontare con la malattia, quando c'è quel tipo di adesione totale a un corpo, tra l'altro così penalizzato, un corpo che può muovere un solo muscolo delle decine che ci sono sul viso. Lui riesce veramente a tenere sulle spalle un film complesso, perché secondo me ha un difetto però clamoroso, si troverà a combattere agli Oscar con The Imitation Game, che al di là delle molte differenze ha molti punti di contatto. Si parla di geni in difficoltà, uno in una sessualità che nessuno gli riconosce, l'altro in un corpo che lo penalizza, che gli crea problemi e che gli impedisce di andare a scovare la profondità dell'universo, o almeno così sembra, e poi invece gli riesce perfettamente perché il suo cervello vola. Come in Imitation Game però io avrei preferito di gran lunga trovare nel film il genio più che questo amore, che è poi la teoria del tutto, inevitabilmente e sicuramente è questo il segreto del film. Cioè lui ci vuole dire che al di là di tutti i suoi studi scientifici, al di là di tutte le sue intuizioni, la grande forza che muove tutto l'universo è esattamente l'amore, l'amore per Jane, che tuttora, anche se si è modificato per Hawking, è una colonna portante. Temo che forse si sarebbe dovuto, come in Imitation Game, cercare però qualcosa di sottrarre qualcosa al melodramma e di dare qualcosa di più alla biografia emotiva e intellettuale del genio. Non ce ne accorgiamo tantissimo, non tanto per la regia, che è una regia molto classica, molto convenzionale, quanto veramente per questo Eddie Redmayne, che probabilmente potrebbe portarsi a casa l'Oscar perché fa qualcosa di clamoroso e annulla o quasi molti dei difetti. Da critico cinematografico mi viene da dire si poteva fare molto meglio. Da spettatore non posso negare che comunque mi sono emozionato. E allora, bene, con l'emozione, che comunque è una delle componenti che ci fanno andare al cinema, risalutiamo Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, prima di passare alla situazione sulle strade, vi regaliamo, come sempre, generosamente biglietti, che però, voglio dire, generosamente messi a disposizione, perché c'è una mostra dal 16 gennaio al 29 marzo, quindi avete tutto il tempo per andarla a vedere, a Villa Panza, a Varese. Che riguarda Wim Wenders, si intitola America, da gennaio a marzo appunto Villa e Collezione Panza ospita 34 fotografie realizzate negli Stati Uniti tra la fine degli anni 70 e il 2003 dal grande regista del Cielo sopra Berlino, immagini alcune di grandi dimensioni che raccontano l'America con gli occhi appunto di Wim Wenders, una mostra dedicata tra l'altro all'amico Dennis Hopper. E allora, cosa dovete fare per ricevere una coppia di biglietti, ce ne sono 5 a disposizione per voi, per la mostra di Wim Wenders? Dovete scrivere un sms da questo momento al numero nostro 349-238-6666, specificate mostra Wim Wenders e mettete il vostro nome, verrete ricontattati e vi sarà spiegato come riuscire ad avere i biglietti appunto per andare a Varese a vedere questa mostra entro il 29 marzo, quindi con tutta calma. Ricordo ancora 349-238-6666. Noi abbiamo una clip che ci racconta, proprio con la voce di Wim Wenders, che racconta qual è la sua attrazione ormai fatale con la fotografia. Non è una cosa nuova, però il suo ultimo film era un film su Sebastiano Salgado, su uno dei più grandi fotografi del Novecento. Adesso una mostra fotografica. Cosa rappresenta la fotografia per Wim Wenders? La fotografia mi permette di guardare il mondo in un modo differente rispetto alla mia altra professione di regista e di narratore. Come fotografo arrivo senza delle storie. Viaggio e non porto niente con me, eccetto la mia macchina fotografica. E sono pronto ad ascoltare. Come regista racconto una storia. Vengo con la mia crew, i miei attori, con il mio copione. Mi porto dietro molte cose. My crew, with my actors, with my script, I bring a lot of stuff. Come fotografo mi porto dietro solamente la mia macchina fotografica. Ascolto e lascio che i posti mi raccontino la loro storia. È quindi un processo inverso rispetto a quello di un regista o narratore. È un ascoltatore. Il fotografo per me, per il modo attraverso il quale fotografo, è un ascoltatore. Uso la mia macchina fotografica come strumento per ascoltare le storie dei posti. Così parlò Wim Wenders di fotografia. Ricordo la mostra Wim Wenders America dal 16 gennaio al 29 marzo, Villa Panza Varese. 5 copie di biglietti per i nostri ascoltatori. SMS con scritto mostra il vostro nome al numero 349-238-6666. Eccoci ancora qua, la quarta parte della Rosa Purpura. Fra poco parleremo di cinema da vedere in casa, però continua la nostra enorme generosità. Dopo avervi regalato i biglietti per la mostra di Wim Wenders a Varese, c'è grande spettacolo per i nostri ascoltatori anche a Milano, con un musical, Frankenstein Junior, che è tornato in città dopo il successo della sua prima tranche, del suo primo passaggio. Ormai è diventato un piccolo classico del musical italiano, questo Frankenstein Junior, con Giampiero Ingrassia che è con noi in collegamento. Ciao Giampiero. Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene, e voi anche, immagino, sì, perché lì insomma... Benissimo. Nei panni insomma di questo personaggio strepitoso della storia del cinema, esatto, e insomma anche adesso del palcoscenico. Vogliamo sentire dalla regia qualche secondo di Giampiero Ingrassia che interpreta una delle canzoni principali di questo musical. La vita ti darò, morte io ti sconfiggerò. Marcia i cieli bui, vita, ora tu vieni. Insomma, avete sentito, c'è l'horror alla fine, ma c'è anche tanta melodia, tanta dolcezza in questa in questo script sonoro, no, Giampiero? C'è un musico che si fa ascoltare. Moltissimo, moltissimo. Poi le musiche sono proprio di Mel Brooks, sai che lui è anche un musicista, come aveva scritto le canzoni per Producers, l'altro suo musical, tratto dal film Producers. In Italia uscì negli anni 60 con il nome di Per favore non toccate le vecchiette, non so se pensa un po' pensa sempre un po' con Gene Wilder, insomma, e quindi lui nel 2007 decide di portare in teatro Frankenstein Junior ed è stato un successone a Broadway, e insomma, noi sono tre stagioni che andiamo in giro con questo spettacolo. Senti, uno spettacolo che chiaramente pesca in maniera evidente dal cinema. Come si trasporta un personaggio come quello di Gene Wilder in un palcoscenico? Come cerchi di entrare un pochino e di trasportare parte di quella straordinaria e mitica interpretazione? Perché quando l'immaginario collettivo è pieno, no, nei suoi occhi di un personaggio così, non deve essere facilissimo uscirne o quantomeno restargli fedele. Ma guarda, io un po' me ne vado a cercare queste cose, perché a parte Frankenstein, ti ricordi, ho fatto Grease e quindi lì c'era lo spettro di John Travolta, ho fatto Full Monty e c'era Robert Carlyle. Sai, si affronta un cult del genere, lo affronti con la semplicità più totale, nel senso, e la genuinità, nel senso che tu segui quello che è scritto, cioè il copione, e poi se uno poi lo confronta si accorge che è quasi identico al film, perché quello è scritto e quello va interpretato. Poi Gene Wilder ha la sua fisicità, io ho la mia, ma bene o male diciamo che i tempi da rispettare sono gli stessi. Poi ad esempio trasportare in teatro Frankenstein con tutta con queste cose gotiche, con questo le varie scenografie, non è stato facile, ma uno dei punti forti dello spettacolo sono proprio le scene. La gente impazzisce perché pensa che siano delle proiezioni, in realtà sono molto semplici, sono dei fondali fatti in prospettiva, quindi quasi tridimensionali, no? Con l'aggiunta dei carri, con l'aggiunta degli elementi, e praticamente la scena sembra quasi cinematografica, tutta grigia, perché ricordiamo che il film era in bianco e nero, quindi insomma diciamo che la, la trasposizione teatrale è talmente bella da non far rimpiangere il film. Assolutamente, un musical in bianco e nero si potrebbe definire, anche se a colori. Cioè, c'è un'impronta che ti restituisce proprio l'emozione di quella di quel film, anche sotto il profilo dei cromatismi. Io ricordo che il film ricordo che il musical è al Teatro della Luna di Assago fino al 1 febbraio. Esatto. E ricordo anche che 5 coppie di nostri ascoltatori, da questo momento, scrivendo al nostro SMS 349-238-6666 e specificando musical e il loro nome e cognome, potranno ricevere una coppia di biglietti, appunto, per il 22 gennaio, giovedì 22 gennaio alle 21 al Teatro della Luna, per andare a vedere Frankenstein Junior e poi magari andare a farsi firmare un autografo da Giampiero Ingrassia, che è sempre molto bravo. Assolutamente, noi vi aspettiamo, insomma, beati questi fortunati vincitori, ecco. Grazie Giampiero, in bocca al lupo per Frankenstein Junior e per poi tutto quello che verrà nella tua carriera. Ti ringrazio Crepi il Lupo, un saluto a tutti quanti. E allora, dal grande musical al home video, al cinema da vedere in casa, siamo arrivati alla parte della nostra trasmissione in cui tradizionalmente ce ne occupiamo, a partire dalla soluzione del game della scorsa settimana. Laputa. Laputa è il nome di un'isola che fluttua nel cielo. Un'isola nel cielo? Già. E anche se si dice sia una leggenda, mio padre l'ha vista. E io la troverò e riscatterò il suo nome. E allora, si trattava del Castello nel Cielo, era questo il gioco della scorsa settimana, il film con cui abbiamo giocato, il terzo lungometraggio d'animazione del grandissimo Hayao Miyazaki, un vero mito dell'animazione mondiale, e continua un pochino questa riscoperta di questo maestro che in Italia forse abbiamo scoperto molto tardi, ma che fortunatamente negli ultimi tempi, anche grazie a un video, ma non solo, anche uscite in sala in versioni restaurate, stiamo riscoprendo per quanto riguarda il suo cinema delle origini. I più bravi, i più veloci sono stati Clara Ferri di Cesena e Francesco Lomascolo di Fasano, provincia di Brindisi. Saranno loro a ricevere l'edizione in DVD di questo film, Il Castello nel Cielo, del quale parliamo con il ritrovato Giulio San Giorgio, che si era preso una pausa doverosa per andare al di là del mondo, nell'estremo oriente, e adesso è ritornato qui con noi per raccontarci i film in un video da Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, e un ben ritrovati ai radioascoltatori. Sì, è veramente sempre un piacere presentare un film di Hayao Miyazaki e soprattutto rivedere, poter rivedere in alta definizione i suoi capolavori d'animazione come questo Il Castello nel Cielo, che è Anno di Gloria 1980, che è una sorta di sinfonia sentimentale, ironica, piena di un surrealismo dolce, di ecologismo e antimilitarismo, in cui seguiamo Pazzo, un ragazzo che lavora in una miniera, scoprire grazie a una ragazza caduta dal cielo una pietra magica, il leggendario regno volante di Laputa. Lo spettacolo del disco ad alta definizione è decisamente soddisfacente e lascia proprio al palo l'edizione in DVD, anche se il video risente di un master non perfetto e l'audio invece risente degli anni. Comunque un disco assolutamente da avere. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana. Spostiamoci alla TV, pur rimanendo sul piccolo schermo, con le segnalazioni dei film da vedere, da non perdere nei palinsesti della prossima settimana, appunto. Mentre, come abbiamo visto, in sala spadroneggia American Sniper di Clint Eastwood, e chissà se le nomination agli Oscar giocheranno ancora un ruolo da volano in questo senso, vi segnaliamo, se lo volete recuperare o rivedere in televisione, la presenza di un altro capolavoro del vecchio Clint, Million Dollar Baby. Sì, Million Dollar Baby, martedì su Rai Mood alle 21:15, la commovente ascesa e la disperata caduta di una donna boxer sotto l'ala di un padre, interpretato da Clint Eastwood, che è un padre molto più che simbolico. Una parabola sull'eterno fallimento del sogno americano e sull'infrangersi violento dei valori, della compassione per il prossimo, contro un mondo decisamente squallido, venale, privo di vergogna, in questo melodramma sportivo di una violenza emotiva veramente fortissima, che, come spesso accade con Eastwood, un'opera decisamente morale sul presente. E allora Million Dollar Baby, martedì 20 dicembre, Rai Movie 21:15, Clint Eastwood, che oggi conosciamo come autore a tutto tondo, certo in certi anni, tanto tanto lontani, ci sembrava solo un attore molto molto riuscito di film western. Di film western, di grandi attori western, ce n'erano altri che erano già dei miti, come John Wayne, protagonista della prossima segnalazione, In nome di Dio, il texano. Sì, su Rai Movie alle 13:30, il 21 gennaio, quindi mercoledì, le vacanze di Natale sono ampiamente finite, ma noi appunto vi segnaliamo questo film che può essere definito il film di Natale di John Ford, maestro del genere fondativo del cinema americano, il western, la storia di tre banditi inseguiti per rapina che promettono a una madre morente di prendersi cura di un bebè, accompagnandolo a Nuova Gerusalemme. Una sorta di tre westerner e un bebè, tre magi che inseguono la cometa della propria redenzione, in un film western veramente bellissimo che rilegge il simbolismo cristiano con aperture visive persino rinascimentali. Quindi John Ford qui è veramente un cineasta raffinatissimo, oltre che decisamente efficace, insomma. E allora recuperiamo questo In nome di Dio, il texano di John Ford, mercoledì 21 dicembre alle 13:30 su Rai Movie. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che il tempo di salutarvi, darvi appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24, come sempre il sabato alle 18 e poi in streaming, in podcast, eccetera, per quanto riguarda chi non è riuscito ad ascoltarci. Un saluto da Franco D'Assisi.